Allora, mi chiamo Rodolfo Giovenzana, attualmente sono il presidente della scuola di pallavolo Anderlini. Una lunga vita nella pallavolo, 10 anni e più nella Panini con 4 scudetti vinti, poi 10 anni nel mondo della pallavolo come allenatore maschile e altri 10 anni nella pallavolo come allenatore femminile. Attualmente mi occupo della gestione della scuola di pallavolo Anderlini. La scuola di pallavolo Anderlini nasce nell'85 da un'idea mia e di Andrea Nannini, mio compagno di squadra, sia nella Panini che in Nazionale. Poi si sviluppa sino al 97, quando decidiamo di guardarci intorno e capire in effetti dove la pallavolo, cosa vuole fare la pallavolo da grande. E inizia un progetto che attualmente annovera più di 1.000 ragazzi, quindi la scuola di pallavolo racchiude 1.000 famiglie, coinvolge 1.000 famiglie, fa attività maschile e femminile. L'anno scorso siamo arrivati ai titoli nazionali Under 14 Boy League, Under 14 FIPAV, in più abbiamo vinto il campionato italiano sempre maschile Under 16. Un piazzamento nell'Under 16 femminile l'anno scorso, un secondo posto. E comunque la presenza in tutte le quattro finali, 14, 16, 18, 20, di una compagine della scuola di pallavolo. Mi dicevi che questo è un ambiente molto particolare, nato nella pallavolo. Questo è un ambiente particolare perché nasce da pallavolisti amici, quindi un gruppo di amici che lavorano insieme e che fanno il vero gruppo, che fanno la vera squadra. Su questo si basa quello che è la crescita e il futuro della scuola di pallavolo. Credo che la cosa più importante, quello che ha saputo fare la scuola di pallavolo, è cogliere il cambiamento, capire in effetti quelli che erano i bisogni, partendo appunto dall'analisi dei bisogni e risolvendo e dando delle risposte ai bisogni dei ragazzi, delle famiglie e al mondo della pallavolo. Avete appena archiviato un torneo importante. Sì, è appena finito il trofeo, la sesta edizione del trofeo Businello. Più di 500 ragazzi hanno partecipato, sono venuti da tutta Europa, 8 nazioni rappresentate. È diventato, e questo l'hanno detto gli altri, il trofeo più importante a livello giovanile di club a livello europeo. Questo sicuramente ci dà la spinta per continuare ed è una grande gratificazione, maschile e femminile, Under 16. Mi fai il nome di qualche altra nazione partecipante? Sì, ha partecipato, c'era la nazionale inglese, c'era la Germania con il Baden-Württemberg, che è un piano altezza della regione tedesca, c'era il Berlino, il Friedrichshafen, squadra belga, squadra francese, slovacca, polacca. La squadra polacca, campione di Polonia Under 16, ha vinto anche il trofeo Businello maschile, mentre la scuola di pallavolo ha vinto il femminile. Una tua opinione sulla pallavolo attuale, Ma di vertice. la pallavolo di vertice posso fare un paragone a quella che la pallavolo di vertice quando giocavo io, è cambiata completamente per la fisicità degli atleti. E anche per quello che è la gestione dell'allenamento e la professionalità. Credo che in questo momento manchi il substrato, manchi un pochino il lavoro del giovanile per mantenere questo livello che è altissimo della pallavolo nazionale. Un'analisi io l'ho fatta quando giocavamo negli anni 80, molti atleti nazionali erano insegnanti di educazione fisica che erano presenti nel mondo della scuola. Attualmente pochissimi giocatori di pallavolo sono insegnanti di educazione fisica e quindi non c'è presenza nella scuola. Bisogna fare dei progetti per far sì che i giovani si avvicinino alla pallavolo e si possa continuare ad avere quei successi, ad avere quello spettacolo che tutti ci invidiano. Hai detto che la scuola Anderlini ha saputo cogliere il cambiamento dei giovani. A cosa ti riferisci in particolare? Ma io posso fare un esempio. Quando ho iniziato a giocare io a pallavolo c'erano le palestre con le porte aperte e i ragazzi entravano senza essere chiamati in palestra. Attualmente ci sono tante cose che possono andare incontro a quelli che sono i bisogni dei ragazzi, bisogni che poi siano reali oppure costruiti, a cominciare dal computer e dalla televisione. Credo che la società sportiva, come era strutturata una volta, anni fa, e cioè una società sportiva che si limiti a far fare le 2 ore di allenamento in palestra ai ragazzi, sia una società finita, una società sportiva obsoleta. Credo che la società sportiva deve diventare società di servizi, quindi andare oltre a quello che è chiamiamolo pure core business, che è la pallavolo, ma dare dei servizi attraverso iniziative, manifestazioni che possano far sì che i ragazzi si identifichino e possano trovare un punto di aggregazione nella società sportiva in cui operano. Quindi camp estivi, feste, ritrovi, tutto quello che può essere di contorno, ma direi che è molto importante in questo momento per far sì che la pallavolo possa avere un grande futuro. Tu ritieni che il modello Scuola Anderlini sia esportabile anche fuori da Modena? Io credo di sì, lo credo fortemente e posso dirti che da molte parti d'Italia e anche dall'estero, non più di 3 giorni fa c'era una delegazione di danesi, 12 persone che sono venute e sono rimaste con noi una giornata intera per studiare il modello scuola di pallavolo. L'anno scorso è venuto Israele, ma non solo, anche a livello italiano, adesso abbiamo un rapporto con Firenze, con la Toscana e con altre regioni d'Italia per capire in effetti che cos'è la scuola di pallavolo e poter riproporre quello che è stato il modello che noi in questo momento proponiamo. Un salto nel tempo, siete primi a ospitare questa nazionale veterani. Per noi è una, posso dire, una gioia, è una cosa stupenda, perché comunque ci collega a quel mondo che personalmente ci ha accolto per tanto tempo. Voi siete quelli che della generazione successiva alla mia, quelli che hanno fatto veramente grande la pallavolo, e avervi adesso nel nostro piccolo tempio, nel palazzetto dello sport Anderlini, per noi è una grande soddisfazione, ma non solo per noi, ma sicuramente anche per quei ragazzi che molti di loro hanno iniziato perché c'eravate voi, perché hanno visto voi, hanno avuto la spinta e hanno avuto la motivazione per poter arrivare a fare quello che attualmente fanno, giocare alla pallavolo con grande soddisfazione. E vista la tua abitudine a creare ambienti a tutto tondo, cosa consigli a noi nazionali veterani oltre a giocare a divertirci? Beh, credo che l'aver accettato la sfida che avete accettato sia stata una grandissima cosa. Nell'ambito di questa iniziativa io credo che quello che hai detto tu, giocare per divertirvi, sia la motivazione più forte, più alta. Poi quello che penso che voi potete fare e dare un grande impulso a quello che è la pallavolo futura, cioè dare con la vostra immagine, col vostro esempio, dare spinta ai ragazzi giovani e dare voglia di giocare a quelli che sono più giovani di voi. Quindi il vostro esempio credo che possa essere veramente di traino per le generazioni future. Qualche consiglio pratico per ottenere questo risultato? Qualche consiglio pratico? Stare attenti alla salute, no, nel senso che io credo che da un punto di vista fisico voi tutti siate ancora molto, molto, molto in forma e molto ben conservati, però attenti perché non è più come una volta. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie Capilupo. Grazie a voi.